30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. La povertà in se stessa non è facile descriverla, perché è una, io penso che sia una sensazione. Si può diventare poveri anche in un giorno, anche in un giorno. Ti trovi in una situazione normale, come tutti noi. Hai una casa, una famiglia, un lavoro tu, un lavoro tua moglie, vivi benissimo, hai un figlio, due figli. Cioè, sembra quasi il massimo della vita, cioè quello che uno aspira quando si sposa, quando forma una famiglia. Succede un qualcosa di improvviso. Succede qualche cosa di improvviso e allora anche le pagine dei quotidiani si riempiono di notizie strane. Questa, per esempio: sempre più nonni rubano nei supermercati, leggiamo sabato 14 febbraio da Libero. La crisi dunque fa anche il nonno ladro, anziani che arrivano alla cassa nascondono forme di formaggio, fanno scivolare prosciutti nella borsetta. Tutto pur di risparmiare quegli euro che servono ad arrivare alla fine del mese. I taccheggi di alimentari nei supermercati sono aumentati nell'ultimo anno del 16,8%. A dirlo è un'indagine del barometro mondiale dei furti nel retail, pubblicata dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca, il nostro spazio del fine settimana dedicato ad approfondire le notizie che corrono veloci, a volte troppo, nel nostro panorama informativo. Io sono Gigi Donelli e con noi questa sera c'è Don Roberto D'Avanzo, direttore della Caritas Ambrosiana. Buonasera. Buonasera agli ascoltatori. Allora, queste storie accadono al nord, quindi nel nord è del benessere, si sarebbe detto una volta, accade a Milano, dove la crisi economica colpisce dal basso, ovviamente investe gli strati più esposti della popolazione. Ci sono molte storie che si trasformano anche in voci. Ne sentiamo un'altra. Non sai come porre rimedio. Ti accorgi che tu non hai più forza, non hai più risorse anche per controbattere questo tipo. Speri sempre che qualcosa succeda, che qualcosa cambi. Speri che qualcosa succeda, insomma, che qualcuno ti venga a dare una mano. Queste voci, peraltro, voglio dirlo, arrivano da un documentario che Giovanni Calamari, un documentarista di Milano, sta realizzando. Si chiama Debito di ossigeno e mi sembra anche un titolo azzeccato, perché dà abbastanza l'idea di questa sensazione di pericolo imminente. Allora, Don Roberto D'Avanzo, visti dalla città di Milano, dall'area di Milano e da questa rete di ascolto che sono le parrocchie, questa crisi è veramente diversa dalle altre? La premessa forse doverosa è che la crisi che ci preoccupa in questo momento particolare ancora non ha mostrato tutto il suo volto oscuro, ancora l'ondata di piena, dicono gli esperti, dovrà ancora arrivare, si prevede nei prossimi mesi. Però è anche vero che questa crisi, prima finanziaria, poi economica, appunto, che sta investendo l'occupazione, in qualche modo si pone in scia rispetto a una situazione di disagio che avevamo, ahimè, dovuto monitorare già negli anni passati. E la caratteristica era proprio questo, di questa situazione di crisi ormai un po' strisciante, è proprio quella che è stata già evocata, cioè il superamento di alcuni, come dire, stereotipi di povertà che prima, che fino a qualche tempo fa noi abbinavamo alla figura un po' naif del barbone, del clochard, e poi gradualmente ci si è accorti che, ahimè, c'è una fascia di popolazione peraltro significativa che qualcuno ha definito poveri equilibristi, gente che tutto sommato ha un lavoro, ha una vita normale, certo senza scialare, ma che mai avrebbe immaginato di doversi appunto trovare in certe situazioni. Una volta c'era un confine abbastanza preciso. Abbastanza netto, abbastanza preciso, bastava vedere, per dire, quegli osservatori particolarissimi che sono le mense dei poveri a Milano, basterebbe intervistare, ascoltare chi opera in questo mondo per farsi raccontare come appunto dal mondo dei clochard o poi dal mondo degli immigrati un po' spiantati che non avevano agganci santi a cui votarsi sul nostro territorio, gradualmente appunto a queste persone si sono affiancate anche distinti pensionati che magari verso l'ultima settimana del mese cominciano a mettersi in coda con persone che forse non avrebbero mai immaginato di avere come compagni, persone con cui condividere il piatto di minestra calda. Questo dice appunto questa evoluzione, ripeto, che è andata ad aggredire un po' una fascia media, persone che a un certo punto, di fronte ad una crisi familiare, ad una separazione, a un'improvvisa malattia, piuttosto che una inaspettata perdita del lavoro, si trovano appunto improvvisamente senza rete di protezione. L'elemento della sorpresa è un altro fattore ricorrente. Sorpresa che naturalmente si tramuta anche piuttosto rapidamente in angoscia. Un elemento, una spina è naturalmente quella del lavoro. Allora adesso sentiamo un altro passaggio che ci parla appunto della scoperta dell'assenza del lavoro. Ho 39 anni, faccio l'impiegata presso una concessionaria d'auto. La mia famiglia è composta da me, mio marito Daniele, mio figlio Fabrizio e il nostro cane Patch. Il 30 di dicembre sono stata licenziata anch'io. Perdere il lavoro tutti e due e perdere tutto. Perdere il lavoro tutti e due significa perdere tutto. Lo ricordo, la Caritas, Don Roberto D'Avanzo me lo spiegava pochi momenti fa, significa una rete d'ascolto di 1100 parrocchie nella diocesi, quindi nella provincia di Milano. Significa ricevere storie continuamente. Questa è, direi, un piccolo esempio di una storia di questi tempi. Una storia di questi tempi che peraltro è portatrice di un elemento di novità angosciante. Quella povertà a cui eravamo abituati negli anni era una povertà che ci aveva fatto il callo, persone che avevano imparato a convivere, persone che si erano attrezzate per sopravvivere e individuando tutti gli escamotage possibili e immaginabili. Il nuovo volto della povertà che scaturisce anche da questa crisi potrebbe essere anche un volto che va a colpire appunto persone, fasce di cittadini, di popolazione che mai si era dovuta attrezzare a e che quindi vivrà molto verosimilmente questa crisi non semplicemente come un impoverimento, ma anche come un'umiliazione. Quindi, shock e trauma. Shock, trauma, vergogna. Noi stiamo attrezzando il meccanismo di accesso, ad esempio, al fondo famiglia lavoro lanciato dal cardinale Tettamanzi. Ci stiamo attrezzando proprio perché diciamo così, gli sportelli di ascolto di queste famiglie, di queste situazioni, siano diversi rispetto a quelli che utilizziamo normalmente per i poveri. Ecco, perché c'è un'informazione molto precisa. Se mi dovessi trovare in una condizione del genere, io avrei un forte imbarazzo e non saprei come muovermi. Perché, appunto, come diceva Don Roberto D'Avanzo, non sono attrezzato, non sono organizzato culturalmente a muovermi in un ambiente di questo tipo. Allora, approfondiamo questo aspetto. C'è un problema, direi, di difesa della propria privacy, nel senso più bello del termine. Certo. C'è un problema di tutela, ecco, anche, ripeto, di quel sentimento di vergogna che una persona che non ha mai avuto bisogno di farsi aiutare evidentemente non può non provare. E allora, proprio per questo motivo, ci stiamo attrezzando perché sul nostro territorio, che è diviso poi in decanati che raggruppano appunto diverse parrocchie, ci siano appunto degli spazi con degli orari ben precisi ai quali potersi rivolgere e essere tutelati, ecco, in una logica di discrezione. Poi naturalmente l'altro criterio con cui l'intuizione del fondo del cardinale va avanti è quella di sostenere proprio quelle famiglie che sono prive di quei sostegni normali, che possono essere la cassa integrazione piuttosto che altri ammortizzatori sociali che certe categorie, pensiamo anche semplicemente dei piccoli imprenditori, dei piccoli artigiani, di cui sono privi. Ecco, la preoccupazione nostra è, primo, tener conto dell'umiliazione che la perdita del lavoro potrà comportare per chi, appunto, tutto sommato in questi ultimi decenni non aveva mai avuto questi problemi, e secondo, appunto, andare a sostenere quelle realtà più deprivate dal punto di vista della protezione. Naturalmente in questo tema, che torneremo ad approfondire tra qualche momento, c'è anche spazio per la città che cambia, per le periferie che cambiano e che a Milano almeno accade, hanno anche una forte presenza straniera. Stranieri spesso in Lombardia significa piccoli imprenditori, spesso gli stranieri sono proprio il motore della piccola impresa da un lato e sono anche quelli per cui la rete è più piccola o spesso addirittura inesistente. 30 minuti in cronaca. Non credo esista, sia esistito nel secolo scorso un momento peggiore per perdere il lavoro. Sto aspettando solo quello, che lui ricominci a lavorare perché la nostra vita possa riprendere come prima. Non ho analizzato a fondo che cosa, come si attui ciò che avviene dopo un mancato pagamento di una rata del mutuo. Cosa può essere in fondo di più classico e più drammatico? Non ho mai analizzato a fondo quello che potrebbe accadere laddove non riuscisse a pagare la rata del mutuo. Allora, tornando all'applicazione pratica, lo ricordo, questo era ancora un brano di Debito di Ossigeno di Giovanni Calamari. Cosa succede? Si va a uno sportello? Chi si incontra? Dove si va? Che cosa si dice? Forse l'abbiamo sentito, ho una difficoltà. Che cosa potete rispondere? Sì, ci stiamo organizzando in questo modo che il primo livello di accesso può essere rappresentato anche semplicemente dal parroco, può essere rappresentato dal centro di ascolto, ce ne sono 290 in tutta la diocesi di Milano, oppure dai patronati ACLI, che peraltro sono distribuiti anche loro su tutto il territorio. Dopo questo primo incontro, allora, dopo la verifica dell'assenza di altri ombrelli protettivi, di altri strumenti che peraltro le pubbliche amministrazioni stanno mettendo in atto, una volta verificato questo, allora il secondo passaggio è precisamente quello di quello che noi chiamiamo con il nome di distretto del fondo, cioè un ufficio che riceverà appunto su appuntamento per evitare imbarazzanti situazioni di coda che possiamo tutti ben immaginare, e lì con delle persone appunto maggiormente competenti l'invito a compilare una scheda che ci permetta di verificare la presenza dei criteri che dicevo prima appunto devono permetterci di aiutare, visto che le risorse saranno limitate, quelle famiglie che non potranno accedere ad altre forme di sostegno. Ecco, qui non siamo in un campo alternativo a quello della pubblica amministrazione. Voi riuscite a operare insieme al comune, alla provincia? Qual è il vostro... Ma l'intuizione è questa: intanto conoscere bene noi, questi nostri operatori, essere formati dal punto di vista delle offerte che la pubblica amministrazione sta mettendo in atto, per appunto presentare a chi si dovesse trovare in una situazione di difficoltà questo panorama. Perché il problema è vero che appunto queste persone che non si sono mai dovute preoccupare di una rata del mutuo non pagata, sono prive anche di quella furbizia, magari di quella capacità appunto di stanare opportunità che peraltro ci sono. Quindi il primo passaggio è quello di vedere se quello che la pubblica amministrazione ha messo sul campo può essere utilizzato. Nel momento in cui verificheremo che non ci sono altre soluzioni, allora ecco l'accesso al fondo famiglia lavoro, con la compilazione appunto di una scheda informativa che poi verrà inoltrata alla segreteria, che è un ufficio diocesano. Non dimentichiamo appunto che la diocesi di Milano ha circa 5 milioni di abitanti, quindi c'è una fra virgolette burocrazia minima doverosa anche per controllare e verificare l'effettiva situazione di bisogno. Una segreteria che farà gli ulteriori controlli per poi decidere l'erogazione. Ecco, naturalmente tutto questo deve avvenire anche in tempi rapidi, perché le storie che raccontiamo di persone che pensiamo e speriamo in tempi ragionevoli possano uscire dalla loro fase, da questo territorio appunto sconosciuto. Ci troviamo di fronte a due esigenze contemporanee: quella di deburocratizzare l'operazione da un lato, e dall'altra parte però anche la garanzia, la tutela che coloro che aiuteremo effettivamente ne hanno bisogno. Questo anche per un rispetto nei confronti di quanti stanno contribuendo a integrare il fondo dell'arcivescovo, e l'intenzione sarà quella di offrire appunto periodicamente un report trasparentissimo appunto di come sono stati utilizzati queste risorse, la tipologia delle famiglie aiutate, naturalmente nell'assoluto rispetto della privacy. Ecco, Don Roberto D'Avanzo, le chiedo quali strumenti ci sono oggi operativi in una città, in un'area metropolitana come Milano, della Caritas o comunque nell'esperienza dell'associazionismo e del sostegno cattolico, laico che sia, in favore diciamo di chi si trova in difficoltà. Ci sono degli strumenti? Sì, strumenti ce ne sono anche molto variegati. La storia di Milano è sempre stata una storia particolarmente generosa da questo punto di vista. E, il problema è che quando noi poi parliamo di strumenti dobbiamo anche pensare qual è il target di riferimento, perché se pensiamo appunto come target di riferimento l'anziano solo che non riesce a uscire di casa perché l'ascensore del suo palazzo è fermo da 3 mesi, allora abbiamo attivato in alcune zone della città, in collaborazione ad esempio con la Coop Lombardia, dei servizi di consegna della spesa a domicilio per questi anziani. Per famiglie che si trovano in una situazione così transeunte, di passaggio, di disagio, di difficoltà, ricordo lo strumento di carta equa, che è uno strumento appunto, una carta di credito che appunto viene caricata mensilmente per 2, 3 mesi, 5 mesi, dipende dalla situazione, per poter appunto fare acquisti nella rete delle cooperative della Coop Lombardia, e che viene caricata questa carta da altri acquirenti che decidono di devolvere una certa percentuale dei loro acquisti appunto per caricare queste carte di sostegno. Cioè acquisto e magari l'1% lo metto su altre carte. Esattamente. Un'esperienza che è importante dire è basata sul reciproco anonimato. Assolutamente sì, ciascuno, sia il donatore, chi va a fare la spesa e appunto decide ogni 100 euro di devolvere un per cento, 2%, 3%, quello che vuole, appunto a favore di questo fondo, dal quale poi dopo si caricheranno delle carte, ripeto, esattamente identiche, ma che vanno donate, offerte a questi beneficiati, famiglie appunto in difficoltà, seguite però dai nostri centri di ascolto. Quindi non è semplicemente un'operazione di tipo economico, è un'operazione anche di accompagnamento sociale, perché molte volte queste persone hanno bisogno proprio di essere sostenute. È la famosa costruzione della rete, cioè famosa nel senso che fa quell'enorme differenza se mi trovo in difficoltà da solo in una città straniera o intorno alla mia famiglia. Tra le esperienze voglio ricordare brevissimamente la scuola popolare per i ragazzini espulsi dalle scuole, comunque un elemento importantissimo, perché come dire, un elemento anche non necessariamente legato al lavoro può essere devastante in una struttura familiare, come appunto le difficoltà del figlio nel percorso scolastico. Anche questa è un'esperienza direi simbolica, ma tanto simbolica quanto come dire profetica, perché dice la capacità di lavorare insieme della scuola con il privato sociale, con le parrocchie, con i volontari, col mondo della cooperazione, col mondo di Caritas, appunto per sostenere in accordo con la scuola ragazzi che a scuola non riescono a starci, per offrire loro un futuro sostanzialmente. Ecco, ora che ci avviamo alla conclusione, il tempo corre, 2 domande, vorrei un po' capire la vostra filosofia, diciamo, di erogazione versus contro emancipazione che mi ha accennato, e poi una domanda pratica: c'è un modo per contribuire appunto in termini di solidarietà a questo progetto, a questa rete che molti cittadini in realtà sono pronti, credo, e disponibili, soprattutto in questa regione, a sostenere? Sì, intanto credo che la contrapposizione, il binomio appunto emancipazione / erogazione, dice la necessità di liberarci dall'idea che le persone in difficoltà, le persone povere, abbiano solo bisogno di cose. Di risorse economiche. Molte persone diventano povere perché sono come dire deprivate di una capacità anche di fare il passo proporzionale alla lunghezza della propria gamba. Molte persone, molte famiglie si sfasciano semplicemente perché non si è stati capaci di non cedere alle sirene che continuamente ti invitano ad acquistare, a comprare, a possedere. Quindi questo modello per cui soltanto se tu consumi allora esisti veramente. Voi avete fatto un'inchiesta sul credito al consumo, su questo. Abbiamo studiato borgo. Questo aspetto, ma per dire appunto che allora poi le persone hanno bisogno certo di risorse economiche, di beni materiali, ma poi hanno bisogno di accompagnamento, hanno bisogno di un sostegno, di una educazione a recuperare una propria autonomia, un proprio equilibrio. Dall'altra parte, per dire quindi che la nostra azione si caratterizza sia in termini, sì è vero, in termini di donazione, in termini di erogazione, ma guai a noi se dovessimo dimenticare l'altra componente. E migliaia di persone già vi aiutano e fanno parte di questa rete, c'è bisogno d'aiuto? In che modo? Caritas si sostiene attraverso l'8 per 1000 che viene erogato alla diocesi di Milano, il pezzo di 8 per 1000 che viene appunto poi dopo utilizzato per le attività caritative, quindi questo qui è la prima, ma poi Caritas sta in piedi fondamentalmente grazie all'opera di centinaia e centinaia di volontari, senza i quali i nostri centri di ascolto non riuscirebbero nelle parrocchie a intercettare appunto quella massa di poveri che quotidianamente intercettiamo. E poi naturalmente Caritas sta in piedi in virtù della donazione di chiunque, come dire, avesse ritenesse che il nostro modo di operare merita la fiducia e il sostegno delle persone. Ho però voluto sottolineare prima l'elemento dell'impegno volontario rispetto all'elemento della donazione economica, perché è poi quello che fa la differenza. Quando al povero tu puoi affiancare un volto, uno sguardo, una persona, una mano amica, oltre che anche delle risorse economiche. Grazie allora a Don Roberto D'Avanzo, lo ricordo, direttore della Caritas Ambrosiana. Noi siamo arrivati alla conclusione, non mi resta che ringraziare anche Fabio Cantadori in regia, darvi appuntamento con 30 minuti in cronaca per la prossima settimana, sabato alle 19.30, naturalmente ricordarvi che questa, come tutte le altre trasmissioni di Radio 24, potete sentirle e risentirle su www.radio24.it. Un saluto e una buona domenica a tutti.